Was it very fair? So was it very fair? Thank you. No. Thank you. Sarà per shop, quelli che si chiede. Ma chi dice ciò? Decima shop. No, dovrebbe essere il coppia perché c'è stato smartphone. Ma c'è pure gli smartphone, non c'è smartphone. Vediamo. Che varie di? Non è di coppiottole. Giusto. No, sì. Vieni, grazie, grazie. Thank you.